prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il nostro percorso con le Caritas ci porta in questa settimana a cavallo tra ottobre e novembre a Venezia, e proprio in questi giorni, a cavallo tra il decimo e l'undicesimo mese dell'anno, cioè da mercoledì 31 fino a sabato 3 novembre, è in corso l'iniziativa Prove di un mondo nuovo, 72 ore con le maniche in su. Che cos'è questa idea? Un'iniziativa che vuole avvicinare i giovani al servizio per portarli a conoscere realtà pubbliche o private presenti sul territorio senza la necessità di un impegno continuativo. Progetto già attuato nelle città di Trento e di Bolzano. Possono partecipare ragazzi singoli in gruppo dai 16 ai 30 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco, testare le proprie capacità, provare nuove esperienze oltre la vita quotidiana. Ovviamente questo vale per chi ci ascolta prima del 31, chi ascolta la replica del sabato ovviamente può solo sentirla e magari metterla in cantiere per l'anno prossimo. L'iniziativa, come detto, dura 72 ore, cioè 3 giorni interi, dalle 17 del 31 ottobre alle 17 del 3 di novembre. I giovani dovranno realizzare un progetto a carattere sociale o ecologico con dei risvolti concreti per la comunità. Scopriranno cosa dovranno fare solo all'inizio del progetto e saranno seguiti da un responsabile. Nelle successive 72 ore si rimboccheranno le maniche, organizzeranno, lavoreranno assieme, improvviseranno con impegno e spirito di avventura le iniziative che saranno sparse in diversi luoghi del territorio, dei comuni della diocesi. Al termine dell'attività, un momento finale comune a sorpresa. Una proposta che è una sfida appunto per mettersi in gioco. Un progetto che prevede alcuni compiti diversi, come detto, che potranno essere di tipo relazionale, ambientale o di riqualificazione del territorio, di tipo conoscitivo, di accompagnamento di soggetti deboli, di animazione sociale. Ad esempio, organizzare una festa per gli ospiti di una casa di riposo e le loro famiglie, organizzarla e realizzarla, ripetiamo, in 72 ore. Dipingere le pareti in modo creativo, ad esempio di un centro giovanile, riqualificare uno spazio degradato con un murales, prestare servizio ai tavoli di una mensa dei poveri, ce ne sono tante nel veneziano, iniziare un'opera di sensibilizzazione verso un tema particolare. Occasione giusta per giovani, gruppi giovanili, per conoscere il proprio territorio, vivere anche esperienze insolite ed emozionanti. Occasione anche per stringere, perché no, nuove amicizie impegnandosi in un gruppo e stringerle di persone, non solo con la tecnologia virtuale. Il progetto deve sviluppare la solidarietà sociale favorendo il contatto costruttivo con le persone svantaggiate ed emarginate, oppure la sensibilità verso l'ambiente e il proprio territorio. L'obiettivo deve essere chiaro e trasparente. Il progetto deve svolgersi, come detto, perentoriamente in queste 72 ore, dalle 17 di mercoledì 31 ottobre alle 17 di sabato 3 novembre. Ovviamente i ragazzi non possono fare i supplenti di personale qualificato, quindi non devono svolgere i loro compiti. L'organizzatore o l'ente mette a disposizione tutto il materiale necessario per realizzare il progetto e anche una persona di riferimento 24 ore sul 24. Partecipazione ovviamente gratuita, visto che è volontaria. C'è anche un sito internet che è www.provediunmondonuovo.it. Ci sono i riferimenti, informazioni, magari può venire a più di qualcuno la curiosità di partecipare o di segnalare ad altri questa iniziativa, che è partita proprio da un gruppo di giovani per far conoscere ad altri coetanei lo spirito di servizio attraverso un'esperienza pratica che li metta in contatto con realtà vicine a noi, al nostro territorio, alla nostra città, ma poco conosciute. Il modello, come detto, è già stato attuato in Italia dalla Caritas di Bolzano Bressanone e dalla Caritas di Trento, riadattandolo con una prospettiva veneziana, evidentemente. Nel nostro caso, a prendere le redini della situazione non è la Caritas, ma direttamente i giovani. Un gruppo di 9 ragazzi che proviene da realtà differenti, molti si sono conosciuti proprio attraverso questo progetto che è attivo da alcuni anni. Un gruppo eterogeneo, con la possibilità di confrontarsi, di capire come ognuno si porrebbe davanti ad una questione gestione a seconda anche delle proprie esperienze. E ripeto, non si può scegliere quale progetto, quello che viene affidato bisogna fare con le proprie capacità e anche con le difficoltà del caso. Eventualmente il fatto di arrivare da realtà diverse non è un ostacolo, ma anzi una possibilità. Magari non ci sarebbe mai stata la possibilità di incontrare o di mettere insieme tante persone che ovviamente hanno realtà diverse all'interno. Oltre alla Caritas, a sostenere e promuovere questo progetto sono il Comune, la Provincia di Venezia, l'Azione Cattolica del Patriarcato, la GESCI delle zone di Mestre, Venezia Isole, il Ministero dell'Università e della Ricerca, la Pastorale Giovanile di Venezia, il Comune di Carlo e di Mira, Quarto d'Altino, Cavallino, Tre Porti, Noi Associazione, Comune di Jesolo, Protezione Civile, Comune di Eraclea e Contatto. Davvero è interessante. Prove di un mondo nuovo, si può tentare di cambiare, si dice spesso che bisogna cambiare, che i giovani devono essere protagonisti. Ebbene, questo è questa è un'occasione. L'età è tra i 16 e i 30 anni, gruppi dai 5 ai 10 componenti, vitto e alloggio ovviamente sono garantiti dagli enti che partecipano a questo progetto. Ripeto, www.provediunmondonuovo.it, e chissà che non vi venga voglia di partecipare. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ma se non fate in tempo a partecipare a questa iniziativa, ce ne possono essere altre. Allora scorriamo alcuni appuntamenti più vicini in calendario promossi dalla Caritas diocesana di Venezia. Giovedì 15 novembre un incontro di preghiera, ce ne sono vari nel corso dell'anno nel territorio, al vicariato di Caorle nella chiesa di Santo Stefano dalle 17:30, e la settimana dopo, giovedì 22 novembre, sempre per il vicariato di Caorle, a Cacorniani nella chiesa di San Giovanni Battista, qui invece alle 18:30. All'inizio dell'avvento il primo convenire Caritas sulla spiritualità d'avvento. L'appuntamento è nella sede della Caritas veneziana in terraferma, in via Querini 19 a Mestre, sabato 1 dicembre dalle 16 alle 18:30. E poi con l'avvento prenderà il via in tutte le parrocchie del patriarcato la campagna denominata Avvento Natale di Fraternità. Su questo daremo alcuni dettagli nel prossimo appuntamento con la Caritas veneziana fra 3 settimane. Da segnare anche domenica 16 dicembre alle 15:30 in Basilica Cattedrale di San Marco l'incontro della Carità con i bambini e le loro famiglie. Anche i bambini possono avvicinarsi appunto al mondo della Carità. Potete segnarvi anche un'altra iniziativa, Capodanno 31 dicembre, si può passare anche in un modo diverso con la solidarietà che prende spazio nella nostra vita, nel nostro cuore, nella vita e nel cuore anche di altre persone. Un'iniziativa, quella del Capodanno di gratuità, nata 6 anni fa in collaborazione tra Caritas e Pastorale Giovanile. Era nata come iniziativa per i ragazzi del servizio civile e poi è stata allargata a tutti i giovani della diocesi. Un'occasione di incontro e di festa per tutte le persone che vivono nella precarietà, nella marginalità, nella solitudine, nella sofferenza. Opportunità anche per i giovani per conoscere realtà di servizio poco conosciute. C'è la possibilità appunto del Capodanno, la notte del 31 dicembre, da far passare assieme a tante persone, ma più avanti ci sarà anche il carnevale, insomma, perché per Venezia vuol dire certamente molto. Altre informazioni si trovano sul sito internet www.caritasveneziana.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas.